Rassegna Stampa Europa. Cari amici, cari ascoltatori, un saluto da Gigi Donelli, benvenuti all'appuntamento con l'Europa, l'appuntamento del sabato, dunque con l'Europa raccontata dalla stampa internazionale. Ovviamente, direi, questa settimana si parla molto in chiave europea, evidentemente, del disastro dell'MH17, dunque il volo Amsterdam-Kuala Lumpur abbattuto la scorsa settimana sui cieli dell'Ucraina, al confine tra Ucraina e Russia, che diventa un caso internazionale, un caso che riguarda appunto il rapporto tra l'Unione Europea, l'Ucraina e la Russia. Forse vale la pena ricordare che l'intera crisi di questa drammatica, ormai vera e propria guerra civile ai confini orientali, di fatto esplode in primavera nel momento in cui il governo di Kiev, in quella fase filorusso, non firma quello che era un accordo commerciale, vero e proprio preludio al percorso dell'allargamento. Sceglie di disertare l'appuntamento di Vilnius, dove appunto si sarebbe dovuto firmare questo accordo, e in quella fase esplode la piazza, la famosa piazza Maidan. Ecco, adesso, ormai 5 mesi dopo, nella capitale Kiev il governo è chiaramente filo europeo, filo europeista, ma nell'Oriente ucraino, quindi nel cosiddetto Donbass, questa regione mineraria, la situazione è quella della ribellione. Penso sia opportuno, come dire, a volte riepilogare un po' lo stato dell'arte. Ma vediamo subito allora che cosa dice la stampa, e lo facciamo partendo dalla rivista di affari europei Europe. Il titolo: Ucraina, l'UE prepara sanzioni economiche contro la Russia. Allora, l'Unione Europea ha intrapreso una strada che potrebbe portare in tempi rapidi al varo di sanzioni economiche nei confronti di interi settori dell'economia russa. Finora l'UE si è limitata a sanzionare persone ed entità, adesso anche russe, che abbiano sostenuto o abbiano tratto vantaggio da attività mirate alla destabilizzazione dell'Ucraina o alla violazione della sua indipendenza e della sua integrità territoriale. In continuità con questa impostazione, secondo quanto deciso dai ministri degli esteri dell'UE lo scorso martedì, il Comitato dei rappresentanti permanenti ha approvato l'ampliamento della lista delle persone e delle entità oggetto di misure restrittive. Ai 72 nomi, questa lista nera di fatto, ai 72 nomi già in elenco, si sono dunque aggiunte nuove persone ed entità. La nuova lista però sarà annunciata soltanto nelle prossime ore. Ecco, intorno proprio al dettaglio, alla profondità, anche alla capacità di questa lista di incidere nei rapporti tra Unione Europea e Russia, ci sono poi tutti, diciamo, i conflitti, le differenze interne di un sistema come quello dell'Unione Europea e dei suoi 28 paesi. Dunque posizioni molto diverse, interessi molto diversi, una sensibilità così lontana, possiamo dire, tra chi per esempio ne condivide o ne ha condiviso storie e confini, l'esempio per tutti può essere la Polonia, e paesi invece più distanti, meno preoccupati e più legati invece a delle attività economiche molto importanti con la Russia, per esempio l'Italia, e non solo sul fronte energetico. Ecco, uno dei risultati di questa situazione è quello che poi gli altri quotidiani europei hanno pubblicato. Prendiamo per esempio la Frankfurter Allgemeine Zeitung, che ovviamente quotidiano di Francoforte tedesco, che dice: la reazione dei paesi occidentali al disastro dell'aereo malese in Ucraina mostra di fatto il sostanziale e regolare costante disaccordo tra i paesi. Così appunto la Frankfurter Allgemeine. Mentre le bare riportano a casa in Olanda e altrove le vittime, la tragedia in realtà mostra da un lato che non è più impossibile ignorare il conflitto, nemmeno, scrive il quotidiano tedesco, volando altissimi o così alti da credersi al riparo, poiché, commenta, nessuno è abbastanza in alto, di fatto fa un gioco di parole, nessuno vola abbastanza in alto da essere fuori dalla portata fisica e politica delle decisioni appunto e dei disastri che si compiono alle frontiere orientali. Ecco, chi ha abbattuto l'MH17 ha anche distrutto l'illusione che la guerra nell'est Europa non dovesse tutto sommato riguardare le nazioni, le pacifiche nazioni dell'Europa occidentale, dice con una certa ironia anche amara al quotidiano tedesco. Per quanto riguarda invece il vicino polacco Rzeczpospolita, un importante quotidiano di Varsavia, l'approccio è addirittura più duro, viene immediatamente citato un precedente. In sostanza dice: se la riunione dei ministri degli esteri a Bruxelles non è stata abbastanza risoluta, non ha preso una posizione sufficientemente ferma e ora si attende con attenzione la lista, quella di cui abbiamo parlato prima, appunto delle sanzioni, per capire se questa indagine, dice, farà la fine delle investigazioni sul cosiddetto incidente di Smolensk del 2010. Ecco, per i polacchi l'incidente di Smolensk del 2010 è qualcosa di molto preciso, perché in quel caso un Tupolev 154 dell'aviazione polacca precipitò di sopra del cielo di Smolensk, in Russia dunque, al confine con la Polonia, uccidendo 90 persone, tra i quali il presidente Lech Kaczynski, sua moglie e altri membri del governo. Insomma, la posizione della Polonia in questi giorni è stata esplicita e si è riflettuta anche nella decisione di non appoggiare la candidatura del ministro degli esteri italiani Mogherini alla posizione responsabile europeo per la politica estera comune. Hanno accusato la Mogherini di essere troppo filorussa. L'opinione pubblica teme appunto che la posizione dell'Unione Europea non sia sufficientemente ferma. Questo naturalmente un tema prioritario, insomma il tema, diciamo, di tutte le prime pagine in un'inchiesta che di fatto è solo agli inizi e che lascia ancora enormi incertezze. Altri temi europei e ci riportiamo in questo modo sulla stampa italiana, sul Sole 24 Ore. Vittorio D'Arolda a metà settimana scrive un articolo in cui il titolo di fatto esplicita il contenuto: Roma rilanci i negoziati di adesione tra Unione Europea e Turchia. L'Italia è sempre stato uno dei più forti sostenitori della Turchia nell'UE. Sono pienamente convinto che il semestre di presidenza italiana accelererà il processo di adesione all'Unione. Questa è un'affermazione del neo ministro turco per gli affari europei Cavusoglu, che ha sostituito nell'incarico da pochi mesi il ministro Egem Bagis, passato da altri incarichi. Insomma, lunedì a Roma l'agenda di Cavusoglu è stata ricca di incontri, a cominciare ovviamente dal ministro degli esteri appena citato, Federica Mogherini, candidata a Bruxelles al posto di alto rappresentante, poi gli incontri via via con i membri del governo. Ecco, una domanda tra le altre di Vittorio D'Aroldi: dice, qual è la posizione della Turchia rispetto alla sicurezza energetica europea, un tema assai delicato? E la risposta dell'interlocutore turco è: l'energia è un settore importante in termini di relazioni economiche, politiche ed equilibrio geostrategico. La domanda di energia aumenta a livello globale, così come in Turchia. La politica energetica della Turchia si basa sul garantire la sicurezza dell'approvvigionamento in un contesto trasparente e competitivo. Grazie alla sua posizione strategica, prosegue appunto il ministro turco, la Turchia svolge un ruolo fondamentale come partner affidabile che contribuisce alla sicurezza energetica europea e alla diversificazione delle fonti. Insomma, forse vi ricorderete, perché poi la memoria anche in politica vale davvero poco, ma circa 8 mesi fa, un anno fa, nel pieno della crisi dell'Unione, vi abbiamo più volte raccontato di come la stampa turca abbia ripetutamente preso le distanze dall'Unione Europea. Come accade, e non solo in Turchia, ci mancherebbe, il vento è di nuovo cambiato, anzi soffia nella direzione opposta. Quindi Ankara chiede a Roma di rimettersi in pista, in moto, approfittando del semestre di presidenza per riprendere la trattativa e di fatto compiere quei passi, molti ne sono stati fatti, ma insomma quei passi che mancano per integrare completamente nel processo europeo questo grande Stato, che appunto è la porta d'Oriente o d'Europa a seconda dei punti di vista, e che, come sappiamo, è strettamente legato anche in termini appunto energetici e difensivi al sistema europeo. E con questo direi che abbiamo concluso il nostro tempo. Non mi rimane che ringraziare Fabio Cantadori in regia, tutti voi che siete stati all'ascolto. L'appuntamento con la rassegna stampa europea naturalmente per sabato prossimo. Buon fine settimana. Rassegna stampa Europa, in collaborazione con Euronet Plus.